Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto Mondo. Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. Qui abbiamo bisogno subito di una bella traduzione, Giulia, perché non sì, abbiamo capito niente. La conferenza stampa di ieri è un giornalista molto tranquillo ma molto deciso, ha ripetuto la sua domanda più volte e la domanda era lei giustificherebbe la violenza per un cercherebbe in tutti i modi una transition senza violenza, transition di potere, e probabilmente Trump si è subito un po' irrigidito, perché se di transition dovremo parlare vorrà perché dire perché avrebbe perso, esatto, e quindi questa domanda non gli piaceva, non gli è piaciuta e ha continuato a rispondere. Bisogna vedere la situazione. Il tema è talmente delicato, quello cioè di assicurare che ogni cambio di amministrazione avvenga appunto nel rispetto delle regole e senza disordini, che il senatore Mitt Romney, che è repubblicano, lo ricordiamo, unico repubblicano che ha votato per l'impeachment di Donald Trump, ma ieri aveva detto chiaramente, due giorni fa, e noi l'abbiamo detto ieri, aveva detto chiaramente che la nomina di un sostituto giudice nella Corte Suprema lo avrebbe visto favorevole. Ieri ha detto che questa presa di posizione di Trump, che non vuole dire apertamente farò di tutto perché dopo le elezioni nel paese regni la calma, Questa cosa non l'ha digerita e ha chiesto che invece il presidente si esprima. Ma anche in questo brano che abbiamo sentito, Trump ha di nuovo sollevato l'ipotesi che ci siano delle irregolarità nell'elezione. E molti osservatori oggi su New York Times e Washington Post fanno notare che è la stessa tecnica usata da Vladimir Putin quando si avvicinavano elezioni che lo avrebbero visto meno favorito del solito. È un tema molto delicato, infatti, perché siamo abituati a Trump che forza dialetticamente continuamente le situazioni ed è il suo stile e gli si concede un certo campo, diciamo, di manovra, però poi quando si parla di garantire una transizione pacifica in caso di sconfitta elettorale il tema è talmente delicato che bisognerebbe alzare le mani e fa la differenza tra una democrazia vera come sono gli Stati Uniti e invece appunto un paese come la Russia. E questo, ripeto, è un po', se ne è parlato molto sui giornali, che però dedicano quasi tutti una foto a questa cerimonia della bara di Ruth Ginsburg, che è stata portata nella sala centrale della Corte Suprema. A proposito di Corte Suprema, appunto questa giudice di 87 anni che adesso deve essere sostituita. Grandi celebrazioni in tutto il paese e sappiamo, lo abbiamo detto ieri, che resta il programma che sabato pomeriggio americano Trump dovrebbe fare il nome di questo sostituto. So che hai preparato anche delle altre voci da farci sentire. Sì, perché sappiamo è stata superata la soglia dei 200.000 morti, anzi per la precisione ho guardato prima di scendere, adesso siamo a 200.000, 1.000 qualcosa, quindi sono ulteriormente aumentati. Ieri c'è stata un'altra audizione in Senato di Anthony Fauci, capo della Task Force contro il Covid. C'era il presidente del CDC e soprattutto il presidente della FDA, della Federal and Drug Administration, che dovrà eventualmente dare l'ok alla somministrazione del vaccino dopo la sperimentazione. Ma sentiamo Fauci, che ha avuto uno scontro durissimo con Rand Paul, che è un senatore repubblicano e faceva parte di questa audizione. Senator, I would like to be able to do this because this happens with Senator Rand all the time. You were not listening to what the director of the CDC said. Fauci dice, lei, senatore, non stava ascoltando quando ha parlato il presidente del CDC e anche il presidente dell'FDA, che hanno detto molto chiaramente, noi non abbiamo alcuna intenzione di politicizzare la questione del vaccino, è troppo importante per noi, e ha usato questa metafora il presidente dell'FDA, ha detto, noi daremo l'ok a un vaccino solo quando ci sentiremo che lo daremmo anche senza preoccupazioni ai nostri figli e ai nostri familiari. Quindi, insomma, questione delicata questa dell'approvazione del vaccino, perché Donald Trump continua a dire sarà pronto prima del fatidico 3 novembre. Dove ci vuoi portare adesso? Ma se vuoi questa notizia la voglio dare proprio per te. Sulla prima pagina del Wall Street Journal c'è questo annuncio del governatore della California che ieri ha detto entro il 2035 non sarà più possibile commercializzare e vendere veicoli a benzina o a che funzionano con quello che noi chiamiamo qui diesel o gasolio. Quindi una forzatura, diciamo, dei tempi per avere molto forte. No, poi insomma andiamo nel Regno Unito perché la situazione lì continua a essere molto difficile. Sì. Molte polemiche dopo il discorso di Boris Johnson con questo inno alla libertà, no? Come scrive oggi Gramellini sul Corriere, come il paese che ha inventato le code e tutte altre misure di disciplina adesso ci dicono che amano troppo la libertà per rispettare gli obblighi. E però siccome la questione che preme di più è quella economica, tutti i giornali oggi titolano sul fatto che il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak, che è l'equivalente del nostro ministro delle finanze, annuncerà ulteriori misure, sgravi fiscali, un ammortizzatore simile alla nostra cassa integrazione, perché soprattutto in vista di questo progressivo lockdown o comunque parziale lockdown, di nuovo ci saranno tantissime categorie che vedranno crollare i loro introiti e quindi preannunciano naturalmente licenziamenti di massa. Gran Bretagna che non potrà contare in nessun modo sul pacchetto sostanzioso di aiuti europei, perché a questo punto chiaramente non ne fanno più parte. Francia? In Francia e anche in Germania in Francia ovviamente spazio alla scomparsa di Juliette Gréco, che sicuramente avrà ulteriori tributi nei prossimi giorni, però spazio anche alla crisi economica. Ci sono queste ondate di richieste di piani di emergenza per le grandi aziende, per appunto provvedere a dare dei paracadute prima che ci siano dei licenziamenti di massa. E poi c'è anche il tema di quel piano per i migranti che è stato presentato ieri dalla Ursula von der Leyen, che in realtà è sulla prima pagina di tutti i giornali tedeschi, forse un po' perché Ursula è tedesca, ma anche perché il tema in Germania è molto sentito. C'è un commento sulla Süddeutsche Zeitung che dice che in Germania è veramente quello che noi potremmo dire politicamente scorretto dire non li dobbiamo accogliere. Poi bisogna vedere come, però nessuno pubblicamente, tranne magari gli esponenti dell'estrema destra, avrebbe il coraggio di dire che questo piano di cambiamento per aumentare la ridistribuzione dei migranti, soprattutto visto quello che sta succedendo in Grecia, è sbagliato. È che è ancora un po' da decifrare, da dettagliare questo cambio. Sì, è un vero cambio. Tra l'altro, restando insomma in lingua tedesca, ma spostandoci in Austria, invece il Die Press, che è il principale quotidiano austriaco, ha una foto gigantesca di Ursula von der Leyen e il titolo: il piano, la politica per l'immigrazione dell'Unione Europea non ha funzionato. E anche l'Austria sappiamo che ha già detto che non approverà un piano di ridistribuzione, di cooperazione che come quello che è stato delineato, ma come dicevi tu, ancora un po' a grandi linee da Ursula von der Leyen. Pochi secondi ancora per i titoli dei giornali spagnoli. Come fotografa una situazione di Madrid che vive una grande difficoltà? El País sottolinea che Madrid ha ufficialmente chiesto al governo centrale, sapete che la Spagna è uno stato federale, un surplus di forze dell'ordine, perché è vero che sono stati, lo abbiamo detto anche ieri, chieste dei sacrifici ancora alla popolazione, mascherine, stare a casa quando si può, ma siccome non ci sono delle multe come invece ci sono in Gran Bretagna, ci vuole aiuto, a meno Madrid chiede aiuto per mettere in pratica queste misure. Grazie Giulia, è tutto, ci risentiamo domani per la puntata di oggi. Jacopo De Franchi in redazione, Pietro La Corte in regia, da Alessio Maurizi. Buona giornata, ciao. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.